Wolf Trips, i viaggi del lupo. Buonasera! Siamo tornati online dopo un po' di settimane, dai. Sì, dai, diciamo che ci siamo presi qualche settimana di pausa. Di pausa, di riflessione. No, vabbè, dai. Oggi è il venerdì 18 maggio e stavo guardando un po' cosa... Sì, beh, dai, siamo quasi... Ormai siamo anche alla fine un po' della stagione ormai. Penso che sia la penultima puntata. Dici? Sì, sì, se non è l'ultima, la penultima puntata. Dopo questa. Si schiatta di caldo. Dopo si muore di caldo e qua abbandoniamo la radio. Anche se devo dire quest'anno tutto sommato si sta ancora bene. Non è che... Sì, dai, non... Questa non è la puntata... come l'anno scorso. Dovrebbe essere la puntata 24 di Wolf Trips. Che me le sto segnando, mi sto segnando 24 proprio 24 di quest'anno però. Sì, sì, sì, di quest'anno, di quest'anno. In totale non lo so, una cinquantina ne avremo fatte, dai. E niente, stavo guardando un po' cosa è successo oggi nel mondo a livello musicale. A livello musicale nel 2017 Alexia pubblica il singolo Beata Gioventù. Alexia. Mai sentito. Alexia, vabbè, famosa per gli anni 90, ma... Io è da un po' che non la sento in giro, Alexia. Poi vediamo se c'era qualcos'altro di interessante. Tiziano Ferro lancia Raffaella è mia. Nel 2007. Però, se no, vabbè, da 11 anni. Nel 1993 invece Laura Pausini pubblica il suo primo omonimo album. Pensa un po'. Va bene, direi che iniziamo subito con un po' di musica, tanto che aspettiamo. Quindi diciamo che il 18 maggio è stato abbastanza ricco, sì, musicalmente, sì, sì, sì, parlando. Sì, sì, sì. E anche per Wolf Trips, che dai, siamo alla penultima puntata, vedremo di fare qualcosa di diverso. Penultima o un paio di puntate no, mancano? No, secondo me è la penultima. Ah. E intanto che aspettiamo i ritardatari, come al solito, Tony... Avevi dubbi? No, non avevo dubbi. Tony, Deborah e Enco, mettiamo così. Non si sa chi sarà. Entrerà Fabio, no? Non lo so chi entrerà da quella porta. Non aprite quella porta se no entrano. Andiamo ad ascoltare il primo brano di oggi, che è Jungle con Happy Man. Different. Questo era il duo Jungle, che sono due DJ Welcome to the Jungle. No, Jungle, solo Jungle. Sono due DJ di Londra, sono diventati anche abbastanza famosi ultimamente, mettiamolo così. Sì, sì, sì. Tra l'altro hanno suonato da poco dalle parti di Milano, quindi magari si possono anche sentire. Andare a sentire. Sì, sì, infatti. Facebook ci ricorda una foto. Sì, robe brutte, stavo perché? Guardando. In questa foto tu mi stavi strozzando. Sì, vabbè, era solo un potevi farlo. Tra l'altro eravamo tipo un DJ contest con il buon Fabri DJ, che salutiamo. Sì, salutiamo, ciao Fabri. Eri veramente piccolo. Eh beh, oh, 4 anni fa, oh, è così. Ah. Tanto hai avuto news quindi sui ospiti? Ne abbiamo uno che è mancato, uno giusto? È mancato. Cioè, non che è mancato in quel senso lì, Porraccio. No, sai, i soliti imprevisti dell'ultimo minuto. Sì, perché imprevisti del venerdì sera alle 20:14. Eh sì. Vabbè, intanto io direi che se volete scriverci o non scriverci, o insomma, il 338-222-8983. Perfetto. Ormai lo so a memoria. Lo so a memoria, bene. Ma non vedi nessuno che arriva, quindi? Non c'è nessuno alla porta? Non c'è nessuno che bussa? Vabbè, niente, allora continuiamo col prossimo brano. Ma veramente alla porta c'è qualcuno? Sì, stanno entrando in tre. Ah, bene. Stanno entrando in tre. Allora, intanto in questa trasmissione che facciamo l'accoglienza. Vedi che è arrivato Fabio, te l'ho detto io. Uno lo perdiamo, l'altro lo acquisiamo. Buonasera. Ecco. Era un programma serio fino a 3 secondi infatti. Fa. E niente, allora andiamo a ascoltarci il prossimo brano, che è di S.G. Lewis con Coming Up. So was I, and now we're coming up together. in questo caso gli ingressi migliori, quelli con la tosse, ingressi scusate, perturbati. Lei andrebbe bene proprio per quella canzone degli anni 80, Scotch. No, quella della tosse. No, infatti ho dietro tutti i farmaci del caso. Sì, sì, abbiamo una piccola farmacia. Sei malata? No, allergia, asma. No, niente allergica. Di che, no, sta solo praticamente il periodo giusto per gli inizio allergici. Di asma, diciamo. Sì, dai. Sì. Comunque stavamo dicendo prima, giusto per ricollegarci, è venuto a mancare cioè sempre in senso, diciamo, non un ospite stasera. Sì, doveva venire, sì, imprevisti dal momento. È più fantasma della mia maglietta che ho su stasera. Non l'ho vista. Dei Ghostbusters. Sì? Sì, sì, questa sì, spacca. Secondo te ci leggo. E invece Fabio, io avevo ipotizzato che ci fosse. Mannaggia questi imprevisti, bene. Ma questa, mamma mia. Purtroppo lui ci sta. Questa è una sfiga proprio, invece. Ma ancora la condanna. E poi vi volevo dire una cosa, sempre ricorrigarci al coso di prima. Abbiamo aperto Facebook e c'era un ricordo di me, lei e... Sì, ma... Lui mi stava strozzando, ti dico solo questo. Ricordo... Collegato a tutta sta. Hai visto? L'hai vista la foto? Fagliela vedere. Senti, non ti dico chi è la terza persona, ma adesso te la farò vedere. Devo cercarla un attimino. Nella pausa poi della canzone faccio vedere. Perché no, è una persona che voi conoscete, no? Fagliela vedere. Non c'è subito, che ti devo dire? Cioè, devi andare in su. No, non c'è. Non c'è. Io pensavo quel ragazzo lì che è venuto a tuo ospite. Sì, ciao. Sì, è uno di lui. Guarda l'altro. Apri l'altra scheda. Qual è l'altra scheda? Facebook. Ah, eccola qua. Ciao Fabrizio. No, salutiamo Fabri DJ. Fabri DJ. Finisci la te. Certo che lo salutiamo. Ciao Fabri. Che tra l'altro ha anche avuto una buona notizia da breve, quindi facciamo anche gli auguri. Ancora un'altra volta? No, no, nel senso. Ah, no, per bambino c'è si è... No, che un anno, no. No, scherzo, dai. Qualche mese. La bambina. La bambina. Sì. Questa che roba è sta supposta qua. Pure. Non so, qua ci sono le supposte. Non so. qualcuno che la vuole prendere. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, stanno dicendo. Prima mi ha ascoltato il pezzo che mi chiedevi di chi era, di S.G. Lewis. Credo che non si pronunci così, ma sarà S.J. Lewis. Sì, perché sennò siamo un supermercato. Sì, S.G. Lewis. Sì, sì. Sì, sì, perché poi è aperto 24 ore su 24. Non so, non vendono alcolici, cose così. No? Invece il pezzo che ascoltiamo subito dopo è di Clapton con Stay the Night. Stavamo guardando la faccia che avesse tale Clapton. Ah, lui, sì, perché lui ha la sua maschera. Lui ha questa maschera... Presa da... Allora, questa è la maschera, è quella che viene utilizzata all'epoca, penso, degli appestati. Mm-hmm. E veniva utilizzata da chi, adesso non mi ricordo assolutamente... no, erano le persone che tiravano su le persone con la peste. Ah, ok. E praticamente all'interno di questo becco lungo avevano delle erbe medicinali che gli servivano per evitare di prendere il morbo. Era una storia, cioè, del una genere. C'era una canna interna praticamente. Se ne parlava anche, pensa un po', nei Promessi Sposi di questa di questa. Infatti è una pippa grande così. Sì, infatti. Però in realtà la sua faccia l'abbiamo vista su Google, ecco, mettiamola così. Boh, sembrava, non so, tipo che so, un fratazzo. Apritemi l'audio della gardesca. Ma io queste immagini le ho già viste anche nel teatro. Si usano? Sì. Teatrali sì, sembra un po'. Sì, ma infatti sembra anche in qualche coso. Opera. Cioè, non so se non è il fantasma dell'opera, però si può sembrare che. Sembra la maschera del fantasma. Sì, perché a un tempo comunque si usavano queste maschere. È un po' inquietante. Sì. Andiamo a ascoltare quindi il prossimo come brano. Come tutte le maschere, diciamo, Tony. Sì, è vero. Ma qualcuno anche qui, anche dal vivo. No? Sì, sì, oltre maschera. Quello. Bene, no, dai. No, niente maschera. Lascia stare. Così al naturale, direi. No, no, neanche. Via, via. Allora, ti voglio bene, Cree, anch'io. Anch'io, lo sai. Avete finito tanto. Voi due? Abbiamo appena iniziato. C'era anche altra gente che in teoria dovrebbe ascoltare, no? Sì. Allora. No, sto scherzando. Siamo in fascia protetta. Vada via chi. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano che è di Clapton con Stay the Night. Yeah. Fire. Ho recuperato un po' di robe vecchie del programma che facevo anni e anni fa. Dopo ti faccio vedere. E questa qua è una base che avevo fatto tempo fa. Senti la base sotto, molto chiptune. Senti. Molto nerd da sì, videogioco. Sì, sì. Era il programma Evolution che facevo anni e anni fa. Tra l'altro ho trovato, ti ripeto, adesso guardando nelle cartelle della radio c'era la proprio... La tua storia radiofonica quanti anni ha? Non lo so, ma tantissimo. Che ho visto una foto di, non so se ci ascolta le B, che è iniziata dieci anni fa. Io ero prima di lui. Lo studio praticamente è lo stesso. Era il primo, no, era il primo che c'era, la prima versione che c'era. Prima versione dello studio. A me piaceva tantissimo quella versione lì, perché praticamente avevi la regia e poi il vetro. Sì, e sì, è vero, è vero. Diciamo vero. Che era molto stile old radio. È bello che Ale B, che chi lo conosce è bello grosso, sembra che non ci stava neanche. Cioè, sì, è vero, ed era magro, scusate. Ed era la stessa, praticamente la radio era sempre quella, nel senso. Sì, sì. Sembrava, però sembrava, effettivamente sembrava più piccola, però non so, aveva il suo fascino. Non so, a me è sempre piaciuta la radio come era fatta così. Poi vabbè, ci sono state varie evoluzioni e siamo arrivati all'ultimo modello che è questo. Come si dice, di virtù. Evoluzione o involuzione? No, sono evoluzioni necessarie. No. Necessità virtù abbiamo fatto, sì. Mettiamola così. Okay. Che dato che lì non si può più, quindi abbiamo dovuto fare. Ok, capito? Sì, no, sì, ci siamo capiti. Dai. Va bene, abbiamo ascoltato il pezzo di Clapton che era un po' musciarella. Adesso stiamo andando un po' sulla versione un po' più tranquilla. Lui che cosa suona? Ma lui suona di tutto, fa elettronica, fa anche qualcosa tendente all'house o comunque fa anche cose così. Fa anche questi brani molto future bass, se possiamo definirli, anche se tu in realtà dici, non è un vero senso. È un DJ produttore o c'è un ghost dietro? No, DJ produttore. È capace produttore. Di quello che fa. E quindi continuando un po' con questo andazzo di musica che mi piace parecchio, devo dirti la verità, ispirazione la primavera. Non ti posso dire da dove è stata tirata fuori, ma tanto lo sai, è inutile, non lo possiamo dirlo in radio. Però diciamo l'ispirazione proviene da quel sito che ti dicevo. E il prossimo brano è di Amber Mark, che è Love Me Right. E è un brano strano, secondo me. L'origine è su Amber Mark? No. Lei è una ragazza. Forse l'ho cercata io. Sì. E questo brano qua mi piace veramente sì, molto. Sì, sì, sì. No, l'ho vista che è in classifica. Non mi ricordo se il brano UK... non è nuovissimo. Devo dirti la verità, è del 2014. Sì. Forse questo brano qua. Ma però... forse ha fatto qualcosa adesso. Sì, giusto. Allora ha fatto qualcosa adesso. È stato ripreso. Okay. Andiamo ad ascoltarlo, è veramente bravo come cantante. Tell me because I've said it all. I've got a feeling we must have hit a wall here. And baby boy, please tell me like it is. Cause you talk love, but you never act on it. Because the driving is alive and honey, it is calling you. Yeah. day, you're starting to drive me crazy. Why won't you realize? Qua è diventato un porto di mare. Hai visto? Cioè, qualcuno gente che è andato che va, via, gente qualcuno che è viene. Tornato. Gente che va in bagno. Genova, gente Porto Torres. Anche sei andato? Anche il giorno a Palermo. Ti sei imbarcato? In questo momento sì, sono a bordo di Radio Lupo Solitario, della senti, nave Radio Lupo Solitario. Senti, l'ho navigato. Tu invece volevi dire qualcosa? No, ti avevo interrotto. Tutto a posto. Senti, senti un'altra base che avevo fatto tempo fa. Tamarrissima questa. Sei un archivio da paura. Ci stiamo trattenendo. Un archivio quella... horror. Vabbè, oh, abbiamo fatto quante 2 settimane di pausa? Non lo so. Sì, un paio di settimane secondo me sono una sì, è sembrato un'eternità. No, perché appunto questa doveva forse saltare per la partita di Varese. È vero, è vero. Siamo, siamo arrivati purtroppo. O per nostra fortuna. Dipende. Però dipende, vabbè, di dispiace vista. Un po' perché comunque. A me dispiace per di più, scusate. Per manga? Perché? Ma manga. Dove vivi? Manga. Sì, lo so. Sì. Però lo magari... conosco. Sì, va bene. No, questo per Gigi. Fa brutti effetti. Per Gigi. Gigi? Gigi la Trottola. Ah, perché lui è molto tifoso del Varese. Chi, Gigi la Trottola? Non lo so, Gigi la Trottola. Gigi Buffon. Ma chi se ne frega? Cambiamo discorso, chiudiamo lo sport. Me ne frega proprio niente. Neanche a me. Lo so, però... Oh, ma che cazzo volete tutti quanti? Basta. Io me ne vado. Ciao. Vabbè, qua oggi siamo contro lo sport. No, ma perché io diciamo certi argomenti ne ho anche più nelle palle di parlare di calcio. No, ormai la stagione è finita, poi è venerdì, divertiamoci, poi siamo un programma musicale. Non mi rompete i coglioni! Vabbè, questa era una citazione di Ligabue. Ah, ok, visto che di venerdì. Giustamente. Vabbè, allora ascolta Fabio, facciamo così meno ci riprendiamo un attimo. Sì. E annuncia il prossimo brano che non so come si pronuncia. Oddio, qual è? Ah. Non è il numero. Io non so come si pronuncia il prossimo brano. Allora, Troy Sivan. Chi? Troy. Chi? Troy. Chi? Troy. Chi? Troy. Ma sei sicuro? Yes. No, dillo come pensi che si lega. Troie Sivan, mai, mai. Ma non seguo mio le parolacce. Ho voluto camuffarla, ma avete bloccato. Pure le parolacce. Ma porca sì. Lui è un ragazzo sudamericano. Però effettivamente dalla voce, devo dire la verità, ho avuto dei seri problemi a riconoscere che fosse un ragazzo. Provate ad ascoltare il brano. Sì. Proviamo. L'hai mai sentito? È un brano che passa spesso in radio. Sentiamo. Andiamo ad ascoltarlo. Shine on, diamond. Don't make me wait another day. 'Cause passion is passion. You know it just as well as me. Now let's stop running from love, running from love. Let's stop, my baby. Let's stop running from us. From us, let's start, my baby. Oh my, my, my. My, my, my. Living fire and breathe. Should be the last night ever. Should be the last night we're apart. Got my name on this treasure. On this treasure. Oh my, my, my. Problemi di cuore. Che succede? Niente. Mi ha detto che mi doveva dire una cosa, però posso contattare. Non lo so, ci sono cose strane. Guarda che c'è un bigolo lì che svolazza. Ancora? Prima c'era la bottega di nuovo aperta, cioè io non lo so. Vabbè, ancora non erano. Metti sulla partita IVA, che te devo dire? Apri un'azienda, che te devo dire? Ci sono degli io strani... sulla tua bottega, ma non ci penso manco. Ci sono degli strani movimenti. Adesso chiamo il telefono azzurro. Sì, anche il telefono rosso e il telefono nero. Ma esiste il telefono nero? Sì. Più che altro mi sta il telefono rosso qua. Perché? Ah, telefono rouge. Rouge. Per via di che? Ma che ne so. Ci sono delle strane cose che stanno accadendo. Ma non è che qualcuno... Ma guarda che qua non ce la fanno, eh. No, c'è ma delle... perché mi portate qua gente che non ce la fa? Perché? Ce la facciamo anche noi. Perché? Ce la facciamo a fatica anche noi, quindi... boh, eh. Mi chiedo perché, Deborah, dimmi tu, perché? Non so, non ce la fa nessuno. Neanche la Deborah arriva al microfono. Ma il telefono per va bene, intanto che qua si passano telefoni, si passano, scambiano informazioni. Sì, facciamo una, un call center straniero. Una radio di scambisti. No, quello direi che possiamo anche evitare. Intanto io volevo lancia di nuovo il numero, va, lancialo nel... 338-222-8983. Hai visto che l'ho imparato a memoria? Complimenti. Hai visto? Bravissimo. Tra l'altro volevo salutare il tuo amico Sandro, che ogni tanto ci si ricorda di te. Ciao Sandro! Salutiamolo, ciao! Ciao ciao! Sì, ogni tanto... Ogni ascoltaci tanto, sempre, anche se è Mamma anche Marrone. Anche se è Mamma Marrone non la mettiamo, però. Ci ha chiesto Mamma Marrone. Dai, possiamo mettergliela. Che canzone vuoi? Magari gliela metterà... sì, Jonathan. Scusate. Giorgio. No, no, io gli chiedo invece che canzone vuole, così... No, le vuole ascoltare l'isola. Però guarda, se vuole l'isola di Emma Marrone l'ascolterà sicuramente alle 22:15 più o meno. Dai, possiamo accontentare i nostri telespettatori. Sì, no, il nostro caro Domenico la metterà alla Salente Disco il 1 giugno. E tra l'altro ho anche una novità per te, perché oltre alla Salente Disco mi è arrivata oggi un'altra richiesta di roba trashissima. Dopo ti spiegherò. Oddio. Devo capire se accettare o meno. Non lo so. Se c'è da vestirsi da donna, diciamo, no, la richiesta da una persona, da un mio amico molto caro, quindi devo pensarci un attimino. Adesso dopo ti spiego bene. È caro perché costa tanto? No. Chi è questo tuo amico molto caro? Te l'ho detto oggi, dai. Sì, dai. Ah, sai, quello che ti ha chiamato. Sì, l'ha appena detto. Che salutiamo. Salutiamo l'amico caro. L'amico caro. Caro amico ti... Boh. Tra l'altro, tu devi ancora riprendere il tuo caricabatterie. Sì, bravissimo, hai capito chi è. Potrebbe essere l'occasione, diciamo. Fatti. E Domenico deve farmi ancora il logo. Di cosa? Il logo, hai ragione, ma in questo periodo, a dirti la verità, non ho modo di scendere nella mia Batcaverna a produrre. È un po'... Batcaverna. È la mia Batcaverna. Beh, l'importante è che il pipistrello lo tieni in casa. Lo ammazzo. Dai, mettiamo un pezzo. Lo ammazzo, cioè, ascolta. Vabbè. Lui o il pipistrello? Tutte e due. Parlando di pipistrello, andiamo a ascoltare il prossimo brano, che è di Bazzi. Ah, non lo so perché. Bazzi, è bellissima la copertina. Sì. Che è una stella gigante, mi sembra, con lui dentro. Sì. E la nuova stella del pop, dicono. Sì. E il brano è Mine, non è Mine. Sì, Mine, sì. Adesso va bene essere ignoranti in inglese, però dai, Mine. Genji Remix. Genji Scan? No, Genji Remix. Ha detto una cosa carina, poi l'ha detta subito la cazzata, vabbè. Lui. Ah, no, ecco. No, se non alzavo e ti veniva a picchiare. Guarda, adesso andiamo a informarci un po' su questo Gengis Khan di Gengi noi altri. Remix. Mi fa un Gengi, grazie. Sembra più, sì, è vero, però non è male. Andiamo a ascoltarci il brano, quindi. Ma si mangia o si beve il Gengi? Non lo so. Dipende come lo usi. E io c'ho solo Gengi, fame. Detto così è bruttissimo, però. You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Girl, I lose myself up in those eyes. I just had to let you know you're comprensione. Vabbè, ma no, sono stupidate. Comprensione di ricerca che non vanno. Incomprensioni d'amore. Pure. Informatica che crasha. No, questo è un altro discorso. Aspetta, chiudiamo prima un discorso a parte. Quindi il pezzo 200 discorsi. Sì, infatti, il pezzo quindi lo conoscevi, questo sì. Qua di Gengis Khan. Che tra l'altro è un DJ che sembra AVC ed è anche olandese. AVC non so di dove. No, era svedese. Vabbè, olandese. Caschi su AVC. Sembra un po' un Di Maio della un situazione. Un po' tipo signorina Longari. Certo che detto così AVC sembra più tipo uno spruzzino del bagno. Del che poi sarebbe il nome, forse AVC. Come si dice? AVC. AVC. AVC mi sembra più tipo quello della, sì, qualcosa da pulire. AVC Net Spray. Dove vado? AVC. Dai. Vabbè, questa era bruttissima. Questa era brutta. Chiudiamo la diretta, ciao ragazzi. Ok, questo era un discorso. È un discorso, l'abbiamo chiuso. Perché il secondo discorso. I tempi. No, perché poi dopo, tra un po', dobbiamo fare un cambio di roba. È vero, vi ho portato qua. Cioè, ha portato chi studia dal suo studio. Dalla Batcaverna. Dalla Batcaverna. Adesso la metto fuori. Batcaverna. Ci manca. In questo caso. Chiunque farebbe meglio Robin, che Batman, citando la canzone di... Perché? Cremonini. Ah, nessuno vuole fare Robin. Ma io ho detto al contrario. Nessuno nel vuole vostro essere confronto, Robin. Se voi siete Batman, è meglio essere Robin. Vabbè. L'ho capita in giro, ma non l'ho capita. No, io l'ho capita. Strano, cioè, piuttosto che voi Batman, meglio essere Robin. piuttosto che essere noi, essere meglio qualcun altro. Che l'ha capita. Niente, lasciamo stare. Era bruttissima, comunque fa niente. Andiamo avanti. Apriamo un altro discorso. E poi dopo lanceremo anche un po' di musica. Un po' di. Ma la lanceremo, ma da dove? Dalla finestra? Sì, la lanceremo. Se la apri bene la finestra, vediamo di fargli fare proprio il volo. Con Fabio. Abbiamo questo discorso con Fabio. Allora, praticamente, cosa succede? Ma che cazzo stai dicendo, Fabio? Aspetta, ferma lì. Cosa succede? Chi ha studiato o è studiato di informatica, succede spesso che ti dicono: no, ascolta, non mi va il telefono, tu che sei informatico, tu sì, non hai sì. cosa. Tu che sei le cose. Oppure, tipo, a me capitava spesso, e lei lo sa bene, no, ma non è che mi metti a posto il PC, tu che hai studiato informatica. Sì, ma io ho studiato gli algoritmi, ho studiato gli integrali, cioè cosa vuoi da me? Io li so mettere a poi, ma non è che mi devi rompere le scatole. E il buon Fabio proprio adesso ha ricevuto una bella telefonata del tipo: ah! Ecco. Ma la Sabina non ci sta ascoltando? Eh no, ha detto che non gli funziona lo streaming. No, è per la TV a casa in realtà. Ops, allora salutiamo la Sabrina. Ciao Sabri. Ma magari lei ci vuole guardare è giusto. Ma è meglio anche no, eh. Io per questo che ho detto meglio essere Robin che Batman. Ma sicuramente ci starà ascoltando. Niente, non la capiranno mai. Me ne no, vado. Io l'ho capita. Mi sto trattenendo dal non menarti. Ma non capisco, io non ho capito. Ma sì, allora, se noi siamo Robin, se noi siamo Batman, loro non vogliono essere come noi. Ma tu cosa c'entri? Io parlo di loro due. Appunto. Ah, allora loro due. Okay. Allora sì. Allora che cazzo che vuoi? Ma io mi stavo già incazzando, Tony, sappi. Ma nella Batcaverna ci sono solo i maschi. Sì. Ah, non si no, sa. No, ma c'è anche sono i pipistrelli, i capitani. Dentro la Batcaverna ci sono anche le mie robe, quindi non lo so. C'è anche Catwoman. Vabbè, era bruttissima questa. C'è anche Batgirl, vedi, quindi è popolato. E vabbè, niente, devi stavo vomitare, dicendo, quindi Tony. Cosa ti è successo? Ti hanno chiesto l'installazione di Adobe Flash Player. Adobe Flash Player. Perché tu sei studiato in informatica. Mamma mia. Non sei studiato in informatica. Diciamo che ci mastico. Mastici 0 e 1 zeri sì. E mastici non li usano gli idraulici. Mastici, esatto. Vabbè, comunque volevo lanciare questo. Uso anche il teflon. Capisco un tubo. Volevo lanciare questo appello. Senti, che non fare il Fabio della situazione, per piacere. Finché non dirà MC non sì, lo infatti. Sarà mai. Allora, voi due stasera devo dire che c'è un altro complotto contro di me. Sì, ma è sempre complotto contro di te. Sempre colpa mia. Sempre. Pensa sì, che vabbè, ma tu alcune te le tiri pure dietro. No, ascolta, adesso non mi sono tirato dietro nessuno, non vedo nessuno dietro di me, quindi chi è che ho tirato dietro? Vabbè, dimmi Domi. Adesso chiudo il suo microfono, però chiudo anche il mio. Non posso. Pensa che? Vai. Sì? Quindi non lo so. Non lo so, cerco di parlare, mi continuate a tagliare dentro, quindi ho fatto lo sciopero della voce e volevo vedere dove andavate a parlare, ma mi sembra che non andate a parlare da nessuna parte. Quindi, detto questo, direi che lanciamo il prossimo pezzo, che è di Charlie Puth. Charlie Puth. Ma tra il Troy di prima e il Puth di adesso, direi che si chiama Dawn for me, quindi vuol dire fallo per me, ecco, fallo per me, mi piace. Ah, Dawn vuol dire sì, fatto. Essenzialmente no, fallo per me. Fallo? No, ma dai, ma non è sempre interpretazione. No, quello è fatto. Fatelo. Fatto. Fatti. Fatto. Fatto. Sì, vabbè. Fatti sono quelli della stazione. Sì, ok. O quelli di Rogoredo. Ok, so, tu sei l'esperto in stazioni e co. Andiamo a ascoltare quindi il prossimo brano, va? Intanto ci riprendiamo un po', va? Charlie Puth. Yeah. What you thinking? You think that you could be better off with somebody new? No, oh, oh, baby, no. You say you're leaving. Well, if you wanna leave, there ain't nobody stopping you. No, oh, oh, baby, no. I won't beg for your love. Won't say please. I won't fall to the ground. Cry for you, baby. But tell me what you've done for me. I've given this everything, baby, honestly. Tell me what you've done for my life. Triangolo nelle Bermude. Non si sa di cosa si ridesse, se del triangolo del microfono o di Tony che si è sfasciato un occhio. Ma io devo comprare le beat, proprio nel senso che quelli che picchiano. No, ascolta, la prossima volta ti porto il caschetto per fare la trasmissione, va bene? Caschetto? Qual è il caschetto? Non ho preso il caschetto, quello quando vai tipo in miniera. Sì, per il pericolo. Quello dei cantieri. Quello dei cantieri. O se no sai anche quelli lì che vanno, che fanno tipo il... No, vabbè, bastano gli solo gli occhiali, così. Tanto è la fronte che becco sempre. Diciamo che è diventato pericoloso restare qua in radio. Poi sì, vabbè, adesso abbiamo scoperto che ci sono anche i buchi. No, ma poi oppure i triangoli amorosi, eccolo qua. Sì. Delle Bermuda, guardalo. Secondo me è veramente apple pie. Vabbè, American pie. Magari sì, si sì, pie. È la torta di mele. Torta di mele. Apple pie. Torta di mele. Lo so. Comunque ho sbagliato. L'inglese ancora me lo ricordo. No, invece io no, perché ho detto prima che era fallo per me, invece era fatto per me. Done for me. Sì, beh, dai, più o meno quella la cosa. Done for me. Vabbè. Anch'io sono fatto, però. Cioè, sono qua. Sì, tu sei fatto e basta. Te sei done e basta. Esatto. Sì, sì. Io sono proprio fatto. No, non sapevo della traduzione done. No, nemmeno io, però il buon sì, Google traduttore. Ci sono tre coniugazioni. Sì, dal to do fare. Bravo. Devo mettere la sigletta The Pennies on the Table. Madonna mia. Quella lì del Mr. Lesson Brown. One. Lesson Mr. One. Brown, sì. Lesson one. Oh yeah, lesson number one. The pen is on the table. Perfetto. Non sapevo. Potrebbe andare al matrimonio del principe che si sposerà domani. E avete sentito, non so per chi conosce, l'after party, cioè la festa dopo il matrimonio, scusate, ho ammazzato un altro con la cuffia. Uccide più la cuffia che la, e diciamo che ci sono dei nomi che circolano come DJ per l'after party, sì, che basterebbe già uno per dire, vabbè, si chiama Carl Cox, che grande. È il più grande DJ inglese, il DJ Ciccione. Bravissimo. Io me ne vado perché DJ Ciccione, ma perché? Così, ma sei cattivo, vabbè. È il più veramente, non sì, ti facevo così, così cacca. Poi c'è il re della la jungle, Goldie, come DJ, sì. E altri verranno annunciati sicuramente. Diplo forse. Io penso che comunque una grande diciamo assenza dalla parte dello scenario italiano. Sto dicendo una cavolata di quello che puoi uccidermi. Sì. Sicuramente sarà Young Signorino. Cioè, lui sicuramente mancherà. Ma lo dovremmo mettere un pezzo di Young Signorino? Ma anche no. Però non mi sfidare. Magari troverei un remix, un mashup, un bootleg. No, io volevo solo dire che ieri ne stavo informando con il viaggio di ritorno del lavoro di queste grandi, diciamo, doti canore di questa persona, e c'era il suo produttore che diceva che no, sarebbe chi? Non mi ricordo come si chiama, però affermava che diceva no, però voi siete qua che lo deridete, però intanto... questo fa i soldi, sì, è vero, però tu rovini il mondo musicale, punto. È sempre stato così, eh? Vabbè. C'è chi invece lo definisce il più... il... com'è che si... nuovo talento della... trap. Sì, beh, Madonna, è già tutto un mondo a parte la trap. The best of trap. Ah, sì, se questo è il meglio. Figuriamoci il peggio. Vabbè, continuiamo con un po' di musica decente, va. Il prossimo è Pomo, giusto per rimanere di in Adamo. Tema. Infatti, sapevo io. E dopo la mela ci vuole il pomo. Fall Together. Aspetta, Fall Together, te lo dico io. Cadiamo insieme. Yes. Ci sta? Giusto? Fall Together. No, fall è quando c'è il cartellino giallo, il cartellino rosso. Fall. Questo è fall. Yes. Giusto? Yes. Sì, sarebbe giusto fall. Se dove ascoltiamo il brano vado subito a fare una piccola ricerca. Vediamo magari anche da che parte arriva. Va bene. Dai, Fall Together. got splits up on my lips and marks on her body. She kinda talks some shit real quick, cause I hear all about it. If she tryna play around with me, I can move something better. I don't wanna take some time to breathe, we'll fall together. If you wanna go, we can fall together. If you wanna go, we can fall together. If you wanna go, we can fall together. If you wanna go, we can fall together. If you wanna go, we can fall together. If you wanna go, we can fall together. If you wanna go, we can fall together. If you wanna go, we can fall together. Siete scambiate anche le cuffie adesso? Sì. Ti risponde lui. Guarda che sì che ha detto. Sì, sì tesoro. Altro che la grande la casa del grande fratello. Sì, infatti. Dici? Mamma sì. mia. Ma cos'è che sta succedendo? Che leggo non lo robe so. Impressionanti. Non lo so, non lo so. Io so solo che lui è meglio del Ken. Vabbè, non ci vuole molto. Ho detto tutto. Ciao, vabbè. Vabbè. No, io invece ho visto, aspetta, cos'è? La Nina Moric. Mamma mia. Soul Enigmist. Ma veramente, Soul Enigmist è più bello. No, hanno detto Michael Jackson. Anche, mamma mia. E che bestemmia per il povero Michael. Veramente. Ma l'hai vista? No. Gli occhi da tossica, anoressica come non so che cosa. Fatta proprio che te lo guardi bene questo programma, l'unica volta sola che l'ho visto, sempre così sera. Sempre così, nessuno lo guarda e campioni di ascolti. Parlare perché stavamo parlando di un lavoro che bisognava fare, mi ha invitato a casa sua a mangiare e puntualmente c'era il grande fratello che a me mi sta sulle palle, non lo Vabbè, posso vedere, chi se ne frega, appunto. Dai, e cosa stai facendo? No comments. No, Ti stavo Giuro. Chiamando col nome della sua ragazza. Vabbè. Sabri, ciao Sabri, tutto a posto. dica cri. No, ti volevo far vedere la foto. Oh signor. Ma no, l'ho già vista, non è importante. Mamma mia, no. Non mi interessa, guarda. Va bene. È una cosa orrenda. Mi dispiace per lei che comunque era una bella ragazza. E... Vero. Era una gran bella donna e si è rovinata. E vabbè, sono scelte della vita, come quelli che sì. vogliono diventare, che sono teoricamente i Ken. Vabbè. Sì, beh, anche il Ken. Magari sono anche simpatici, per carità, mi sembrano. Ma sì, sicuro. Solamente però... che, cioè, veramente io non capisco come mai una persona debba diventare per forza un qualcosa. Te lo dico io. Insicurezza, perché sennò se non fai qualcosa per essere visibile agli occhi della gente non ti cagano. Sì, a parte insicurezza, però questo deriva anche dalla tua famiglia. No, perché allora in quel caso no, perché a me è capitato di vederlo, lui era proprio così che si sentiva di voler essere lui, ha preso questa, diciamo, questo insicurezza spunto qua. Questa, però e c'è comunque alla base un'insicurezza, vuol dire che, perché lui l'ha detto che in realtà lui a se stesso non si piaceva, e siccome lui era amante appunto di questa cosa del Ken, ha voluto diventare come ma lui. Ma quale, infatti, dei due? No, il Ken, io sto parlando del Ken. Ma quale dei due? Quello italiano. Quello pelato, diciamo. Sì, e praticamente vedi? Ho visto un po' di tempo fa appunto che diceva appunto questa cosa, che ma lui tu non si piaceva. D'Urso? Io no, qualcun altro sì. Vero? Ecco. Magari vuole fare anche la statua come vogliono giù, mi sembra, Battipaglia. O in un paesino della Puglia vogliono fargli la statua la Barbara D'Urso. Oh signor. Perché è un personaggio amato dai bambini. Dai bambini? Vero, vero. Cuore. Non lo so, fanno un referendum del comune. Ma sei serio? No, sono serio. Infatti pensavo che fosse una fake news, invece no. Oh signor. Mamma mia. Non sanno che sia proprio bene. E magari la buttano anche sul turismo, che non so, c'è gente che... Sì, la buttano sul turismo, nel senso che la lanciano proprio. E magari qualcuno la prende, insomma, dai, 60 anni non è che si butta la donna. Ma sei tutta rifatta, ma per chi? Favore. Ad Urso. Mamma mia. Beh, vabbè, comunque sì. Cioè, mille telecamere, cioè mille luci puntate addosso. Si è rifatta bene la ragazza. Ma che è rifatta bene, allora... c'ha il filtro davanti alla telecamera per far nascondere le rughe, lo sanno tutti. E allora vuol dire che non è rifatta. No, è rifatta, solo che anche quella è un'altra miss insicura, da paura, si è fatta mettere sti filtri davanti alla telecamera. Ma tutti insicuri sono? Fabio, ma te che... Fate due domande e dati una risposta. Ma, vabbè, non lo so. Che cazzo di risposta è? Se una persona arriva a questi stratagemmi vuol dire che tanto sicura del tuo aspetto non lo sei. No, il fatto è che anche il mondo dello spettacolo, Fabio. Infatti. Sì, però ho capito. Però il bello è che devi apparire sempre bello. Anche, no, perché adesso secondo me comunque è cambiata anche la società, capito? Infatti è cambiato il modello. Ma dai, modello di che? C'è uno deve per forza rifarsi perché sennò non piace alla gente. Ragazzi, questo è un programma per divertirsi. Ma dai, non diciamo minchiate. Cioè, io so benissimo io di non essere. Vabbè, chiudo qua. Però chiudo non qua. Mai a rifarmi per piacere a qualcun altro. Chiudo. Se ti piace così, ma bene, se no ti metterei a fare. Infatti. Culi, cioè, mi interessa. Infatti. Quindi però io, quello che volevo dire... Sì, io... Sì. Vabbè, lascia stare. Lascia stare perché non capisci un cazzo. Vai, con il prossimo brano che è di... Neck. Cazzo. Neck. Ma che neck? Neck sense. Sì, neck. Basically. I never light fire when you left my life, and the world kept turning. Wherever you go, I'll always treasure everything we were when we were together. Hand on my heart, if you let me love you, I promise you that I'll answer you, answer you, I'll answer you. I'm not giving up, but I can't deny. I betrayed your trust and placed your dignity in the line of fire. I know I can't rewind. Can you hear me calling? Wherever you go, I'll always treasure everything we were when we were together. Hand on my heart, if you let me love you, I promise you that I'll answer you, answer you, I'll answer you. If you let me. If you let me, I'll ante you, ante you, I'll ante you. Okay, I ante you up. Me no hold back, me give it all. You no pick up the phone, me no na. So me call you sister and your brother. Hola, awkward, awkward. So me teach you doing much better now. Broke up with the man from Besuton. Said he never ever wanna settle down. Just give me that chance now. Me no sip on the face now. Me walk through the flesh just so we can only work it on and now. I have to say yeah, I could wait forever to the day you say yes, say yes. Oh, I answer you. Wherever you go, I'll always treasure everything we were when we were together. Hand on my heart, if you let me love you, I promise you that I'll answer you, answer you, I'll answer you. If you let me. If you let me. If you let me, I'll answer you, answer you, I'll answer you. Wherever you go, I'll always credit everything we were when we were together. Hand on my heart. If you let me love you, I promise you that I'll answer you, answer you, I'll answer you. Wherever you go, I'll always credit everything we were when we were together. If you let me love you, I promise you that I'll empty you, empty you. Intanto abbiamo da una parte del campo della box abbiamo Fabio, dall'altra parte del campo abbiamo Cristina e tra poco assisteremo allo scontro in diretta, giusto? No, ma va, dai. No, no. Tong! È che veramente... Vai, Tony, fai la velina che fa round 1. Anzi, ormai siamo già al round 2. No, quando lui parte con... Sexy da sembrare una velina. Quando lui parte con le sue ragioni, basta, lui non sente altro, basta. No, ho solo detto la mia opinione, tutto qua. Ma faccia, hai fatto un decalogo. Infatti, cioè, io volevo dire anche altre cose, invece no. Vabbò, senti, vabbè, così. Dai. Tanto... Vabbè. Com'è adesso... che si chiamava la canzone? Allora, la canzone è di Black Saint Ant Up. Anti Up. Ante Up. Ant Up. Come cazzo chiama lui? Ant Up. Vabbè, niente, io volevo recuperare qualcosa, vediamo se riesco ad avere questo contributo radiofonico. No, questo è Tony che sta smanettando, che non è bello da dire, però è così. Ti stai smanettando, Tony? Oh, no, c'è il motivo, non è che sono impazzito. Ecco, no, sono riuscito a metterlo. State buoni, dai, ve lo però, dico. Però era meglio quella di Costanzo. Lo so, questo qua. Bani. Ma era quella, Bani. Era quella la cosa, però no, era un contributo Bani. Sballato, dai. Un contributo sballato. La regia non ha... Tanto qua siamo perché... tutti sballati. No, perché praticamente non l'abbiamo pagato bene la regia, quindi diciamo che quello che arriva, arriva, così. Voleva essere una cosa simpatica, ma... Non ho parole. Non lo è stato. Intanto vediamo che Tony si appresta a fare qualcosa qua. Sì, più o meno sto cercando di mixare qualcosa. Ma la tonica? È live, faccio da barista stasera fa proprio shakera. Vabbè, niente, fai così, dimmi tu quando potresti essere pronto, però se non alzi il volume lì sarà un po' duro. Sta andando. Vabbè, non l'ho alzato perché sto parlando. No, giusto. Tra l'altro Sono rumori molesti? No. Uno, ci sono rumori molesti, vabbè, ok, quello ci può stare. Due, metteremo un po' di brani mixati, ma ogni tanto ci faremo sentire, se non dobbiamo fare il round 3 e il round 4, no, se no lasciamo spazio alla musica, ve lo dico già. Ci siamo capiti, anche con Tecciolo. Va bene, dai, vediamo se... Infatti pensavo che... Cazzo, una canzone di Clash, ma non ho messo i Clash. Era la base. Tanto di là c'è un po' di maretta. Dai, proviamo a vedere un po', visto che entriamo nella mezza tonica. Vado. Mixata. Sì, vai pure. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Attacchiamo banda. Dai, ci siamo. Sì, dai, vai DJ. Perché mi guardi in quel modo? Mi sto facendo gli affari miei. Va bene, dai, mi ascoltiamo un po' di... Ti ricordi che pezzi hai messo? Le devo dire o faccio il DJ figo che non dice le sue tracce? Ma dillo, ma smollati, va. Allora, ho cominciato come sul piatto 1. Cazzo, non mi ricordo la... Come Andrea. Vergogna! Allora, deck A. Direttamente... Deck A. Deck A. Da deck 1, from... Disco to disco. Un disco to disco, giusto? Allora, disc 1 e Talamanca... With caffè da... No, che cazzo sto dicendo? Faccio figo. Ma ce la fa. Repeat. Ok. Talamanca. Talamanca with Beach Ball Remix. Track 1. Track 2. Ma parla italiano per piacere. Allora, il primo pezzo che hai messo qual è? Talamanca, che è il nome di una spiaggia ibizinca. Ok, ok. Che è un produttore tedesco. E ha fatto un remix di un altro gruppo tedesco che sono Nalin e Kane, Beach Ball, storico pezzo. Il secondo pezzo, per non essere ripetitivi, un trio inglese, Bob Young, con Is It Love, che riprende un pezzettino dei Depeche Mode. Ok. Se non mi viene in mente la canzone. Quella che sta andando adesso è un remix di tanti remix di... Gli Energy 52, che hanno fatto la traccia più famosa della storia, Café de Mano. Che è la, questa è la, è la Dave Middleton Remix. Ok, ok. 2016. Intanto di là sta arrivando il sonno. I gatti loro. Vabbè, vabbè. I gatti loro? I gatti loro. I gatti loro. Ma noi in casa ne avevamo un po' l'altro giorno di gatti, giusto? Sì, li abbiamo estirpati. Ma tu? Poveri. No, li hai estirpati. Ah, vabbè. Che gatto così. No, è una metafora, mettiamola così. Sai che il gatto cos'è che produce? Tanto pelo. Noi avevamo, diciamo, dei gatti in casa. Ma perché voi due producete pelo? No, non noi, no. Però diciamo, sotto al letto si producono dei gatti, mettiamolo così. Non lo so, io penso che si producono sopra. Però vabbè. No, la mamma... no io non so. Mi ha spiegato un'altra cosa. Cioè, il gatto appunto... è il topolino. Vabbè, ma niente. No, ma appunto per quello. Io non so come fai a produrre dei gatti sopra. Io non voglio neanche sapere. I grumi di polvere... sono dei gatti, chiamiamoli gatti. Vivete nel Far West, vivete. No, vabbè, noi ce l'abbiamo anche noi in casa perché... Anche avendo due gatti. Normale. Sono produttori gatti. Di gatti. Di gatti, beh, giustamente. C'è maschio e femmina, dai. Sì, dai, mettiamolo così. Ah, ecco, si chiamano i cat producer. Puoi silenziarlo per piacere? Senza microfono, però si sente lo stesso. Senti, ma quindi adesso continui o lasci la... Lascio il loop perché sto... Lascio il loop. Sto trucco è il loop perché... No, adesso voglio vedere come lo togli il loop adesso. Teoricamente... Sì, no, mi ricordo che dovrebbe essere questo. No, adesso faccio io, vedere. No, no, no, bravissimo, bravissimo. Ecco. Non l'hai tolto. Come non l'ho tolto? Sulle istruzioni c'era su. Shift e questo. Shift, c'era merda. Scusa, torni qua no, a fare lesson one. Ho raddoppiato. Shift. Oh, madonna mia. Puoi tornare a fare lesson one of mixing e console? Sarò la distruzione, avevi. Shift. Shift. Shift. Out. No, non esce più. Vedi che fa il figo. E meno male che abbiamo tutti la stessa console. Non vuole uscire. Non vuole uscire. Esci da questo loop. Esci da questo loop. No, non la doppia. Dov'è il libretto delle istruzioni? Non lo so, le stiamo provando tutte, ma qua è dura. Qualche locale ci dovrebbe ascoltare, meglio che... È meglio che non ci ascolta. No, ma adesso lo risistemo io, guardate. Ok, ci siamo. E niente, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ma l'abbiamo risolto. Quindi continuiamo con un po' di musica e poi dopo vedremo un po' quali altri disastri combinare in questa puntata. sound, yeah. Hai visto, abbiamo cambiato un po' stile oggi. Sembra un po' Ibiza Global Radio. Beh, la prossima puntata è l'ultima, potremmo magari quasi festa, no? Dobbiamo far festa. Facciamo, però che inizia a fare un po' caldo, eh. Sì. Cioè, mamma mia. Tu poi... Scatta. Cosa? Il pancoddo. Questi sono infelpati anche. Ma io, devo dirti la verità, sto bene. I gemelli separati alla nascita. Ecco. Ma Kiko, qui è l'imbarazzo della scelta tra gemelli. Mamma pure mia. Tu ti metti. Eh? Tre gemelli, pure tu. Sì, Sei il terzo. Più sei la gamba corta. Sì, no, ma infatti adesso iniziamo a cantare, perché noi siamo gemelli dipende diversi. Dipende da dove mi prendi, ecco, perché anch'io ho le gambe corte. No! C'è la regola della gamba. L. Sì, infatti, anche il mio cognome è con la L. Vabbè, lasciamo stare cagata. Va bene, Fabio, grazie anche per il tuo mixaggio. Grazie, ciao. No, è stato ciao, bravo. Ciao. Scherzo. Mi è piaciuto anche con la musica che... Sì, è vero. No, poi non conoscevo. Questo . È il genere, appunto. Sì. Complimenti. Ciao, grazie. Che cazzo, ti faccio i complimenti. No, perché non è abituato a ricevere. Esatto, no? Di solito è sono abituato a essere ricevere assicurato. Lo troverete prossimamente sulla nave? Suprema. Non è una discoteca. Supreme. Che sembrano quelle cose, quelle magliette. No, non so se magliette o cappellini che vanno in giro adesso. Non so se li vedi i Boccia. Che vanno in giro con sta maglietta Thrasher. E invece c'è un'altra che c'è scritto Supreme. Sì, scritta rossa. Sì. Non l'hai mai visto? No. Allora, ma dove vivi? Dove vivi? Eh? Non è una marca. Adesso potresti comprarti quella maglietta lì e andare in giro sulla barca Supreme. Sulla barchetta, sì, dai. Ma sì, sul barchino. Ma sì, in realtà è una scialuppa, dai, di salvataggio. Il canottino. Eccola qua, non l'hai visto? Ah, sì. È un negozio di skateboard, è una marca di abbigliamento fondata... Di skateboard. Il marchio si rivolge a Gurtus pop punk rock. Yeah, ok. A me mi sa che non c'è in giro né di punk né di pop. Sì, infatti. Ormai il punk rock, diciamo che ormai. Ah, ricordiamo che non so se 20 anni fa e fanno un concerto per celebrare i Prozac più. Fanno chi? Prozac più fanno il concerto del ventennio. Veramente? Sì. Ah, però. Si sono riuniti e chi va? Bene. Per ricordare anche i fasti di Radio. Va bene, comunque, questo esperimento di console, tranne qualche piccolo intoppo, colpa mia, devo dire la verità, perché ho chiesto io di fare il loop, quelle cose lì. No, dai, va bene. È andato bene, potremmo riprenderlo magari settimana prossima per come puntata di chiusura. Magari, non so, un YMCA, qualcosa di più allegro. Sì, no. Possiamo... è il closing e party. Balliamo. È closing party, dai. E facciamo, emuliamo il party a caso. È vero, perché non lo facciamo? È vero, possiamo fare così, una canzone a caso, quella che ti gira. Certo, a me ne girano tante. Anche a me, sai quanto girano? Stasera proprio hanno girato, guarda. A 360 gradi. A me no, devo dire la verità, no. Guardate che io settimana scorsa mi sono messa a canticchiare in un genere, sono finita un altro genere. È vero, lei potrebbe andare bene per fare il party a caso. Dal vivo, tutto lei. Tutto lei. Ah, perché? Vabbè, anche intanto... a caso, ma perché? Dove vai a caso? In quella locazione, location. Se parte, ecco, a caso. Allora, detto questo, io direi che ci agganciamo al prossimo brano che andiamo a ascoltare, che non è più roba mixata. Crash? No. No, andiamo a ascoltare il brano. Con te partirò? No, Psycho, che va bene per lui. Di Post Malone, che è posso. Mamma mia. Post è morto. Io c'ho fame, ragazzi. Sì, il post del malore. Damn, I hate being gone psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Oh, I hate being gone psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, you stuck in the friend zone. I time like 4, 5, or 5. Ayy, 100 bins inside my shorts, you know the shit. Ayy, try to stuff it all in, but it don't even fit. Ayy, know that I've been with the shits ever since the jit. Ayy, I made my first million, I'm like, shit, this is it. Ayy, 34, a walkthrough, man, we had every slit. Ayy, had so many bottles, gave ugly girl a sip. Out the window of the Benz, so we get sent in the rent. And I'm like, whoa. On the hold, and I can never tell you no. Damn, I ain't be going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Oh, I ain't be going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, they be going psycho. My roll going crazy, hitting little mama. She wanna have my babies. 50 on the banky, chain so stanky. You should see the whip. Promise I could take your bitch. All her riding in the old school Chevy. It's a drop top, booming with a thot thot. She gon' give me top top. Just one switch, I can make the eyes drop. Hey. Take you to the smoke shop. We gon' get high. We gon' hit Rodeo. Dollar Valentino. We gon' hit Pico. Take you where I'm from. Take you to the slums. This ain't happen overnight. No, these diamonds real bright. Santa G, still in my pants though. All VVS's. Put you in a necklace. Girl, you look beautiful tonight. Stars on the roof, they matching with the jewelry. Damn, I ain't be going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Oh, I ain't be going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through. Prova a parti, scusa. Vabbè, no, no, vabbè. Prova a parti per. No, no, ci fanno i. Ci chiedono i diritti d'autore. Con te partirò. Canzone per caso. Canzone per caso. No, tra l'altro dice molto che siamo molto stanchi questa canzone. Probabilmente ha colto il segno. C'era un punto che diceva che siete molto stanchi. Lui è molto post. Sì. Secondo me siamo noi che lo vogliamo sentire. Sì, perché l'abbiamo sentito. Beh, è una teoria psicologica questa. Tu senti quello che vuoi sentire. Tu ti senti molto stanco, Fabio. Ultimamente molto stanchi. Sì. Ma lo sai o credi di esserlo? No, no, lo sono e basta, appunto. Comunque, lui è superare la parte emotiva, è proprio fisica la sua stanchezza. Sì, sì, ma anche mentale. Deborah, ti vedo molto stanca o affamata. Molto stanca. Io ho una fame. Strano. Dai, siamo quasi addirittura tu d'arrivo. Vuoi? Tu hai mangiato una pentola di macinati. Di macinati. Di macinati. Di carne trita al sugo. Di carne trita al sugo. E me la sono mangiata anche di gusto. È fatto bene. È veloce, però. Noi poveracci che non abbiamo mangiato. Sì, vabbè, adesso non è che. Sto cercando il pezzo che dice molto stanchi, ma non lo trovo. Aspetta. Molto tranchi. Ecco, magari metti quella. Molto tranchi, molto stanchi. Yeah. Yeah. Oh, c'è il punto che dice siete molto stanchi. Dove c'era il ritornello? Vabbè. Aspetta. No, niente. Non la trovo e vabbè, niente. Si è stancato di dirlo. Si è stancato anche il PC. Io direi che lanciamo il prossimo brano e poi dopo ci iniziamo ad avviare verso la chiusura. È pugliese questo. Manek. Manek, Manek. Questo è il neck pugliese. Dei poveri. Esatto. Non so se dei poveri, magari c'hai i soldi. E cosa vuol dire questa cosa qua? Ieri c'era neck. Ah. Sì. Ma il cellulare. È entrato col chitarrino. No. È vero, anche ovviamente lui non suona il basso, vabbè. No, ma lui è bravo comunque a suonare, non si può dire niente. È uno dei prodi che è bravo. È un bel ragazzo, sottolineato. quando faccio le canzoni una volta. A parte quando ha copiato i Sun 41, lui un po' non lo sapeva. Di stile, non ascoltava la loop, così fa. Lì, vabbè, ascoltaci, Neck. Vieni a trovarci. Vabbè, andiamo a ascoltare il prossimo brano, quindi di Mneck. Lo invitiamo, Mneck. Lo invitiamo subito. Ormai sono su Radio Italia queste due qua. Sì, sì, sì. Mneck, intanto Mneck. Mi mandano le canzoni i miei colleghi Bass Hunter con Now Is Gone. No, sì. Now We Are Gone. Bass Hunter? Non lo so perché. Ne parlavo oggi. È bellissima quella canzone. Sì, Now You're Gone. E niente, diciamo, ascoltiamo il prossimo cantante che è Mneck. Mneck. E il titolo è Tong. Tong. Lingua. Lingua. Bravissimo. Tra l'altro salutiamo chi è che te l'ha mandata? Pulvirenti. Lo salutiamo. Ciao Pulvirenti. È chiamato anche Polveriera, Pulviolenza e anche Pulviscolo. Con questi il suo sono loop. I suoi. Un signore. Pulmino. Pulmino. Pulmino è una nuova cosa. We both know there is something going on. There is something going on. Didn't wanna stop this verse with those three little words. Cause we both know there is something going on. But I don't wanna play it wrong. So I'm not gonna say it. No, I don't wanna say it. I don't know how you'll take it. So I'ma try not to say it. Cause when I've said it in the past, each time it didn't last. So I'ma try not to say it. It feels like I might say it. So I'm putting both hands over my mouth. I can only hope nothing's gonna come out. But there it is on the tip of my tongue. I think I love you. I think you're the one. I'm putting both hands over my mouth. I can only hope nothing's gonna come out. But there it is on the tip of my tongue. I think I love you. I think you're the one. No big deal. Explaining how I feel. I don't know why it's taking us so long. Why it's taking us so long? So much hesitation for that kind of conversation. We both know there is something going on, yeah. But we don't wanna play wrong. So I'm not gonna say it. It's best not to say it. I don't know how you'll take it. So I'ma try not to say it. It's what I've said in the past. Each time it didn't last. So I'ma try not to say it. But it feels like I'm messing up. Che Sabotage, no, si può... c'è il service dentro, cioè lui quando vede un cavo boh, impazzisce. Ci sarebbe la canzone quella dei cosi Beastie Boys. Beastie Boys. Sabotage, sabotatore, qua che smontava, staccava cavi. No, sono riordinato tutto riordinato, qua. Sì. No, è vero, è vero. Ma anche a casa, se vuoi venire a casa mia, c'ho nella Batcaverna, ci sono un po' di cavi. Ti lascio le chiavi, vai lì, me le sistemi e... Guarda, non sfidarmi troppo perché io penso che torni a casa e rimani così. Vabbè, si può fare. Cioè, ho sistemato un magazzino intero, figurati cosa è, se mi fa paura una cameretta. Cioè, la tua Batcaverna. Una cameretta. Non è una cameretta, adesso. Insomma, va bene. cameretta. Mica un bambino, nella camera ci dormiamo, grazie. La camera. No, in realtà ho portato tutto giù in garage, per quello è la Batcaverna, perché non voglio avere nulla su in casa, era quello il discorso. Invece è proprio il contrario, invece se mai avessi l'opportunità... Vuoi la cameretta. Un giorno di vivere da solo... Penso proprio che la mia Batcaverna sarà in casa, in una stanza per i fatti suoi. Ah, pensavo che parcheggiavi la macchina dentro in casa. I ricchi lo fanno. Con tutto semimontato. Sarebbe una figata però, Tony. Intanto sta per arrivare un contributo. Arrivi con la macchina, la metti nell'ascensore, questa sale in casa. Ehi, devi avere ma c'è un sistema del genere? Sì, ma in America poi nei film così fanno. Comunque, giusto per dire, penso che prima stiamo parlando di questo, ci vuole il bellissimo spot. Oh, signor. No, non va, cazzo. Aspetta, no, perché tu stai parlando della tua cameretta, giusto? Sì. Mi raccomando, cioè. Fate tanti bambini, alle camerette ci pensiamo noi. Era perché guarda, tu guarda, i bambini anche no, cioè, no, non era questo lo spot, ce n'era un'altra diversione. Ah, arriva. No, no, c'era proprio un'altra versione che parlava di mondo camerette. Beh, ma se è un bimbo di Fabio, la caverna ci sta benissimo. No, io penso che se dovesse nascere bambino ritorna da dentro da dove è venuto. Appena mi vede, torna dentro subito. Il video degli Enigma è giusto, yeah. Che dalla vecchiaia ritorna. Ma cosa sto combinando i capelli? Vero. Nicolò Fabi, io e i miei capelli. Oggi sono molto... Io la mia rapatura. Sono rapato a zero. No, qua siamo più sul sugo. Mm-hmm. Perché passiamo i pelati. È vero. E vabbè, dopo questa marea di dopo stronzate, questa battuta gastronomica. Questo ragazzo ha bisogno anche da gastrite. No, io non avrò ferie fino a oltranza, quindi penso che impazzirò prima. È già a ottobre, più o meno. Più o meno sì, no, più o meno l'anno prossimo però. E andiamo a ascoltare il prossimo brano che è di Amery, che di Amine. Amery, siamo così. So good, così buono. Tante buone sono cose. Sono passate dal pugliese alla napoletana. Ehi, tante buone cose. I was afraid of love until I met you. I felt the magic when I met you in my heart. So good, so different. You don't need to pretend. You got that feeling too. I'm feeling something in my heart. Don't pay no because it's too much to deny. Just a little bit too much. Just a little bit too much. I feel so good. So good, so good. I feel so good. So good, so good. I feel so good. So good, so good. I feel so good. So good, so good. Del lupo. Qualche giorno me lo spiegherai dove va sto lupo. E non so, è in viaggio, è sempre con la valigia in mano. Magari me lo ritrovo io sulla nave, che ne sai? Lupo di mare. Esatto. Sì. Invece se va in montagna è un lupo di montagna, non so, sì. Dipende dove va, i viaggi del lupo. Poi poi mi informerò con una canna in bocca sto lupo. Mi informerò perché si dice lupo di mare. Non lo so. Lupo di mare perché ci sarà. Beh, mi informerò, lo dirò alla prossima puntata. Che è l'ultima, attenzione. Però devo dirti la verità, non è stata una brutta puntata e non è male anche farne una ogni due settimane. C'è un po' di più freschezza mentale, mettiamola così. Sì, perché la freschezza termica è un po' più ambigua. Sì, dai. Poi mancano anche, diciamo, dei personaggi che occultano il tuo modo di pensare. Sì. Con il calore. Quindi, diciamo, non lo so cosa sto dicendo. Sto aspettando che qualcuno di là parli, ma non dice nulla. Prima ti lamenti che ci interrompiamo. Nessuno. No, stavo facendo la ricerca. Ma di che cosa? Di lupo di mare. Lupo in fabula. Basta. Lupo simpatico? Lupo Alberto, non so, andiamo avanti. Lupus, c'era anche una cosa brutta che era il lupus. Lupus. No, lupus non è una malattia. È una malattia. Lupus. Come si chiama? Lupus è una malattia. Il lupus? Sì, proprio lupus. Ah. Cioè ti crescono i peli. No, la malattia è brutta, una roba brutta. No, niente. Non c'entra niente con lui. No, mi ricordavo il termine, non mi ricordavo come si chiamava, però era una cosa brutta, quindi cambiamo argomento. Bene, comunque siamo arrivati in fondo, direi che ci salutiamo. Abbiamo toccato il fondo. No, ma ancora oggi secondo me non siamo proprio sul fondo. L'abbiamo sfiorato, ma non siamo arrivati proprio al fondo. Siamo ancora lì aggrappati alla fune. Sì. Altre volte siamo andati molto più in basso. Molto più in basso. Stasera diciamo che aperta, per dirla alla Marina. Sempre sta signorina Longari. Chi è la signorina Longari? Quella che sta sul cielo. Poverina, dai. Va bene, dai, io direi che vi saluto. Beh, poverina non lo so, Beh, dipende da quanto era caduto dall'uccello, cioè. Dipende anche da che uccello era. Se cade da un falco, probabilmente sei in alto, cadi, da ti un fai condor. Male. Da un condor non so. È caduta sull'uccello. E la sarà caduta su un condor. Allora le mie ricerche sul lupo di mare. Infatti è caduta su un condor lì. Vabbè, dilla, dai, diciamocela. No, dilla tu la prossima volta, sei più bravo. Ma cosa, che è caduta su un condom? Ok, sai adesso... Sai che con... Ho anche un... Ah, tu! Ok, adesso abbiamo toccato il fondo, ci siamo, ci siamo riconosciuti. Cioè, sicuramente facciamo una staffetta per quelli dopo che fa paura. Se devo parlare di qualcosa di serio, noi... Vabbè. Vabbè, lasceremo il testimone in buone mani. Bene, direi che lasciamo lo spazio ai saluti. Sì. E salutiamo. Salutiamo a Sord. E salutiamo a Mazzi. Salutiamo tutti quanti. Comunque, se vai a comprare il condom, c'è anche lo zainetto in omaggio. Sì, è vero. Con Durex c'è lo zainetto in omaggio. Ammazza quanto praticano sti ragazzi. E c'è anche la tessera punti. Quando arrivi a un tot non lo so cosa dire. Hai una ciulata gratis. Hai visto un bebè. Sì, ma ragazzi, un po' di TV vi fa bene a voi, Cioè, magari vi tranquillizza. L'importante è che lo usano un po'. Che fanno la collezione. No, in realtà, la raccolta punti fanno. Lo confermo tipo pallone. In realtà penso che siano anni. Ma voi non la guardate la televisione? No. Ma che lo fanno alla pubblicità? No, io la TV guarda quasi zero. Lo fanno alla pubblicità. E dovresti leggere un po' di più che guardare. Esci la TV che la piscio, una cosa del genere. Non era il cane una volta. Stiamo parlando di adesso TV. C'è pure la TV che fa la pipì. Va bene, io direi che io vi saluto. Io Domenico sottoscritto vi saluto. Ciao. Saluto Tony. Ciao. Saluto Fabio. Ciao Bully. Questa cosa qua la dice sempre alle B, mi stava sempre sulle palle. Sono tutti e due pelati, dunque. Salutiamo la Deborah e salutiamo la Cri. Ciao. Io mi sono salutato. Nessuno mi saluta, bastardi. Ti sei salutata, ciao, basta. Ciao Cri. Sembrava tipo ogni volta sembrava il gruppo anche degli alcolisti. Che ci ascolta in diretta. Sì. Salutala. Ho detto, salutiamo Sabri. Ciao, ciao Sabri, ciao Sabri. Ciao Sabri. Ciao Sabri. Forse ciao. La vedremo presto. Ci ha ascoltato in PDF lei. In PDF? Con Adobe. Con Adobe. Sì, con Adobe Acrobat, nel senso che fare acrobazie su di te, però, nel senso che no, acrobazie, penso che le dovevo fare. Che mi incazzavo io. Allora, sai com'è? Va bene, dai, presentaci l'ultimo pezzo che hai fatto, sì, una richiesta. Sì, insomma, grandissima richiesta. Sì. È arrivato il nostro Calcutta con paracetamolo, estratto dalla Bomba Dischi. Non lo sapevo, penso che sia, sarà la sua etichetta. Tra l'altro è secondo sulle tendenze di YouTube, quindi direi che... Cioè, perché da quando è che tendenze... Cioè, YouTube ha le tendenze. L'hashtag... No, in senso come... Ha le tendenze maniache. Twitter, no? Twitter, qual è la parola che va di più? Allora, adesso giusto poi chiudiamo con il pezzo. L'hashtag. No, c'è un termine esatto che di... Top trending. Allora, praticamente adesso YouTube sta diventando un super social. Allora, hanno fatto lo streaming della musica come Spotify. Sì, ma noi in Italia è arrivato molto dopo questa cosa. E adesso le tendenze c'erano già sempre state. In più hanno aggiunto l'hashtag. Cioè, quando c'hai video tendenza, ci sono. Tra l'altro credo che il primo in tendenza, adesso butto un occhio veloce. Vediamo chi è il numero uno. Il governo italiano. No, in fatto di musica. Oddio. No. Cioè, ecco, io non capisco come un produttore del genere possa fare un disco a un demente del genere. Senti, facciamo così, ascoltiamoci il brano di Calcutta, che comunque della è un e bravo produttore. E con questo salutiamo i nostri radioascoltatori. Ci sentiamo settimana prossima per la closing party. Sì, canzone a caso. No, non è vero, faremo un po' di DJ set. No. DJ a caso. Minimo. No, DJ a caso sì, DJ a caso metteranno musica anche loro, penso sì, un po'. Sì, va bene. Quello sì, DJ a caso mi piace. DJ a caso mi piace. DJ per caso. O DJ per caso. DJ per caso. DJ per caso. DJ per caso mi dispiace. Dai, ci sentiamo settimana prossima. Ciao. Ciao. Tocchi pirina 500, se ne prendi due, diventa 1000. Io sento il cuore a 1000. Sento il cuore a 1000. Il Duomo di Milano, un paracetamolo sempre pronto per le tue tonsille. Sento il cuore a 1000. Canto di gabbiano dentro la mia mano. Se siamo in metro, in treno, non mi importa. Io sento il mar Mediterraneo dentro questa radio. Ti prego, vacci piano, che se mi stringi così. Io sento il cuore a 1000.